Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, puntata numero 436, nella quale parleremo soprattutto di tartarughe che si fanno la plastica, ma non per le rughe. Speriamo di avervi incuriosito. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Questa puntata al piccolo globicefalo morto sulle coste meridionali della Thailandia per aver ingoiato oltre 80 sacchetti di plastica. La Thailandia è tra i maggiori consumatori al mondo delle inquinanti e indistruttibili buste, spesso fatali per gli animali selvatici e fonte di grandissimo inquinamento. Il piccolo globicefalo è stato trovato in fin di vita in un canale vicino al confine malese. Una squadra di veterinari ha tentato di stabilizzarlo, ma alla fine l'animale è morto. L'autopsia ha rivelato che nello stomaco del cetaceo c'erano 80 buste di plastica del peso totale di 8 kg. Durante il tentativo di salvataggio, la balena aveva vomitato 5 sacchetti. I biologi marini, ricercatori alla Kasetsart University di Bangkok, hanno spiegato che ogni anno almeno 300 animali marini, tra cui balene pilota, delfini e tartarughe, muoiono nelle acque thailandesi per aver ingerito plastica abbandonata in natura. Il benessere che il nostro modello di sviluppo produce, evidentemente, non è per tutti, e a pagare il prezzo più alto sono sempre i più deboli. Mentre gli altri animali saprebbero vivere e vivrebbero molto meglio in un mondo senza plastiche, la domanda è se noi sapremo reimparare a farne a meno. Sconfiggi l'inquinamento da plastica. Se non puoi riutilizzarla, rifiutala. È lo slogan scelto quest'anno dalle Nazioni Unite per la Giornata Mondiale dell'Ambiente, celebrata martedì 5 giugno. Il filo conduttore delle tante iniziative in programma è la lotta alla plastica monouso, con l'obiettivo di sensibilizzare governi, aziende e cittadini nella ricerca di soluzioni alternative all'usa e getta, verso una riduzione drastica del suo utilizzo, ma soprattutto della sua produzione. Tra bottiglie, bicchieri, posate, cosmetici e vestiti siamo arrivati a produrre 20 volte più plastica rispetto agli anni 70. Un terzo di questa plastica viene utilizzata negli imballaggi. Di questo passo, entro il 2050 in mare ci sarà più plastica che pesce. perché mare e oceani sono i primi ad essere soffocati dai rifiuti di plastica. La conferma di questi dati arriva dall'UNEP, il programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente, secondo il quale ogni anno si utilizzano 500 miliardi di buste di plastica e ogni minuto vengono acquistate nel mondo circa 1 milione di bottiglie di plastica. I vantaggi della plastica in termini di costo, praticità e resistenza non bilanciano gli svantaggi che provoca la loro dispersione nell'ambiente. Basti pensare ai due più grandi accumuli di rifiuti galleggianti del mondo, vere discariche di plastica in mare, la Great Pacific Garbage Patch e Tailafushi alle Maldive. Un problema che può sembrare lontano da noi, ma che secondo il rapporto di Greenpeace, un Mediterraneo pieno di plastica, ci riguarda molto da vicino. È proprio di questi giorni la proposta dell'Unione Europea della messa al bando di 10 prodotti di plastica monouso, come cannucce, cotton fioc, piatti e bicchieri usa e getta e soprattutto le attrezzature da pesca in plastica. Tutti insieme questi prodotti rappresentano il 70% dei rifiuti marini nel vecchio continente. Ancora plastica. Il progetto europeo Indicit, al quale partecipa anche l'Istituto Superiore per la Protezione Ambientale ISPRA, ha analizzato 611 tartarughe marine caretta caretta, animali che per la loro distribuzione geografica, per la presenza in diversi habitat e la caratteristica di ingerire rifiuti marini, sono eccellenti indicatori per valutare l'impatto della plastica sulla fauna marina. Sono state analizzate 187 tartarughe vive e 424 tartarughe rinvenute morte sulla spiaggia. È emerso che il 53% degli esemplari aveva ingerito plastica. Tra le tartarughe morte, il 63% aveva plastica nell'apparato digerente. Nello stomaco di una tartaruga spiaggiata nel sud dell'Italia è stato rinvenuto l'involucro di uno snack francese, cannucce, tappi, lenze e ami. Doesn't matter what you create, if you have no fun. Pretty girl, put down your pen, come over here, I'll show you how it's done. I can dance, I can drink, in the dark, it's all a trick. Across the room, across the street, I'm in the moment, can't you see? I'm a party girl. Do a twirl, see my eyes, throw a glance. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, funny girl, make you laugh, want me bad. Na now I feel so much better. In the back of a car, I just met them tonight and I feel like such a star. What's your name? What's your art? Nobody knows about my broken heart. Yes, I'm a party girl, crazy girl. See my lips, how they move. Can't you see I'm a natural? Life of a party girl, sexy girl. I used to be so fragile, but now I'm so wild. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. What did you do last night? Oh, I was out so late, now I'm so tired. I'm a party girl, do a twirl. See my eyes, throw a glance, can't you see I'm a natural? Life of a party girl. Ogni settimana, anche stavolta, la rubrica di cucina sarà a tema. E anche stavolta, il tosco vegan chef Gabriele Palloni saprà trovare il modo per dedicare la sua ricetta vegana e cruelty free alle nostre beniamine, le tartarughe marine. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. La bella tartaruga che cosa mangerà? Chi lo sa, chi lo sa? Due foglie di lattuga, poi si riposerà. Ha, ha, ha, ha, ha, ha. La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù. Come un siluro filava via, che ti sembrava un treno sulla ferrovia. Ma venne un incidente, un muro la fermò. Se siete fedeli ascoltatori di Restiamo Animali, probabilmente vi sarete accorti con quanto sadismo ogni settimana la redazione mette a dura prova la mia capacità di inventare un piatto che si abbina a un argomento trattato in trasmissione. Ecco, questa settimana il piatto vegan del pasto gentile è dedicato alle tartarughe marine. Cosa fare, una zuppa? Qualcosa con gusci di noce che ammiccasse al carapace? No, ecco a voi la ricetta della tartaruga di mare. La bella tartaruga che cosa mangerà? Chi lo sa? Gli ingredienti per 4 persone sono 200 g di barbe rosse cotte, 2 cucchiai di riso soffiato, un foglio di alga nori, uno spicchio di aglio, il succo di un limone, sale e pepe, 2 cucchiai di olio extravergine di oliva, un cucchiaio di capperi, maionese vegan, foglie di menta. La bella tartaruga nel mare va perché? Ma perché? Tagliate 4 strisce di 2 cm di altezza dal foglio di alga nori. Mettete il riso soffiato in ammollo nel succo di limone, aggiungendo ciò che resta dell'alga. Lasciate riposare una ventina di minuti. Tagliate le barbe rosse a pezzetti e mettetele nel bicchiere di un mixer. Unite il riso soffiato senza scolarlo, l'aglio, l'olio extravergine, i capperi, lasciatene qualcuno per decorare il piatto, il prezzemolo tritato, sale e pepe. Frullate il tutto facendo lavorare il mixer ad impulsi, in modo che il tutto si triti ed amalgami senza diventare troppo macinato. Lasciate riposare per qualche minuto in frigorifero, quindi con l'aiuto di un coppapasta formate le tartare. Coprite la circonferenza con le strisce di alga nori e decorate con fettine di limone, capperi e foglie di menta. Servite con un cucchiaio di maionese vegan e del pane integrale tostato. Teletiche, o chitarre, variane, sciacrie, sciocarie, la più Di oggi parla di un animale mitico nella medicina tibetana, è l'origine dell'universo, è il simbolo della longevità, a parte quando l'uomo mette lo zampino per provocarne l'estinzione. Parliamo di tartarughe e parliamo di una cantante che longeva non fu, ma la cui notorietà dura nel tempo, ovvero Janis Joplin e la sua Turtle Blues, che è una canzone autobiografica dove lei parla dei suoi mali d'amore e poi si paragona a una tartaruga che si nasconde sotto il suo guscio per proteggersi. Un passo indietro nel tempo, visto che sono tornate di moda gli anni 60 con il 68, e buon ascolto con Janis Joplin. Attraverso i temi e le notizie dalla galassia animalista, antispecista e vegan continua e andiamo in Francia, dove secondo la stampa sono pesanti le critiche degli ambientalisti e delle associazioni dei consumatori al progetto di legge sull'agricoltura e l'alimentazione approvato dal Parlamento, adesso in attesa di passare al Senato. Dopo 8 giorni di dibattiti dai toni molto accesi, il 30 maggio i deputati hanno dato il via libera alla nuova legge. Per il quotidiano francese Le Monde, il testo votato applica 2 pesi e 2 misure. è compiacente con gli interessi delle aziende dell'agroalimentare, favorevole alle rivendicazioni degli agricoltori, soprattutto al potente sindacato FNSEA, quanto prudente nella difesa dell'ambiente e delle aspettative dei cittadini. Assente dal testo l'impegno precedentemente preso da Macron di vietare da qui al 2021 l'uso del glifosato, erbicida dagli effetti cancerogeni. Respinti il divieto di pubblicità dei cibi industriali, che è tra le cause di obesità infantile, l'allevamento libero delle galline, la fine della macinazione dei pulcini, la videosorveglianza nei mattatoi, la diffusione dei pesticidi con mezzi aerei in prossimità di luoghi abitati e la creazione di un fondo di indennizzo per le vittime di prodotti fitosanitari. Governo e Parlamento non hanno ascoltato i ripetuti allarmi degli scienziati, citiamo ancora Le Monde, su perdita di biodiversità, degrado ambientale e seri problemi fitosanitari. Le lobby dell'agroindustria hanno saputo difendere efficacemente i propri interessi. Adesso toccherà al Senato pronunciarsi. Qualche puntata fa affrontammo la questione dei macelli mobili. Sono sistemi che prevedono le operazioni di abbattimento e macellazione a domicilio, cioè presso gli allevamenti stessi. Una sorta di filiera corta che abbatte le spese di trasporto e migliora, almeno così si dice, la qualità della carne, dal momento che gli animali non soffrono le agonie dei lunghi viaggi in camion verso i mattatoi e non vivono il terrore dell'attesa del loro turno. Facemmo notare il paradosso della carne felice e l'ipocrisia che anima e ispira il cosiddetto benessere animale, un concetto che sembra stare molto a cuore a chi gli animali li alleva, in realtà facendoli nascere per poi morire. Sui macelli a domicilio abbiamo chiesto un parere filosofico al nostro pensatore animalista di riferimento, il professor Luigi Lombardi Vallauri, docente di filosofia del diritto. Le motivazioni offerte da Émilie Janin sono valide. Ridurre la sofferenza e l'angoscia dei bovini condannati all'allevamento intensivo, al trasporto industriale e al mattatoio. La sua proposta si avvicina a quella che io chiamo lo scenario vita degna morte in dolore. Allevamento in pascoli sereni, improvvisa anestesia totale lontano dall'inferno dei macelli, l'animale vive bene e si addormenta senza sospetti e non si sveglierà. È uno scenario preferibile alla barbarie attuale. Però attenzione, lo scenario, proprio perché minimizza il dolore, massimizza il danno. Faccio un paragone che mi è suggerito da una frase di Stangl, il nazista direttore del lager di Treblinka. Anestetizzare e uccidere un'ebrea elegante, profumata, che studia fisica teorica e la sera ha un appuntamento d'amore, è un danno più grave che abbattere un'ebrea scheletro vivente in pigiama concentrazionario a Treblinka. Così, togliere la vita a un bovino felice è un danno più grave che sparare in testa il proiettile cattivo a una mucca sottoposta a vita indegna. Qui c'è quasi eutanasia. Il danno da vita e il danno da uccisione sono inversamente proporzionali. Più dannosa è la vita, meno dannosa è la privazione della vita. Anche per quanto riguarda la psicologia dell'uccisore umano, è più violento e più scandaloso uccidere un animale felice, a cui hai voluto bene, che uccidere un animale intollerabilmente maltrattato. Ciò non toglie che, sebbene eticamente e psicologicamente problematico, lo scenario ideato da Émilie Janin sia per gli animali, dico per gli animali, preferibile alla barbarie attuale. E quindi posso capire che due associazioni animaliste francesi l'abbiano sostenuto. Dalla Francia cambiamo scenario, andiamo in Brasile, dove 70 milioni di polli sono stati soppressi per uno sciopero dei trasporti. Lo sciopero dei trasporti sta letteralmente mettendo in ginocchio il Brasile, si legge sulla stampa, e oltre alla popolazione a farne le spese sono anche gli animali. È quanto riferisce il Corriere della Sera nel comunicare come ben 70 milioni di polli siano stati soppressi come misura d'emergenza. Protestano i produttori con 120.000 tonnellate di esportazioni andate perdute, ma anche le associazioni animaliste protestano per l'eliminazione di un numero così elevato di animali. Facciamo notare che 70 milioni è il numero di abitanti di un paese grande come la Francia. Anche gli allevamenti di pollame ne hanno risentito, tanto da rimanere rapidamente senza più mangimi per gli animali, costringendo gli stessi allevatori a vere e proprie soppressioni di massa. Il problema non viene però risolto con l'eliminazione degli animali, perché, data l'impossibilità di accedere ad adeguati trasporti, le carcasse di questi ultimi non possono essere smaltite, rimanendo accatastate all'interno degli stessi allevamenti. Uno scenario analogo starebbe coinvolgendo anche gli allevamenti bovini. Oltre alla mancanza di cibo per mucche e vitelli, molti animali sarebbero rinchiusi nei camion fermi lungo le strade del paese. Back with me, 'cause he's my true love, my only one, don't you see? And on that fateful day, perhaps in the new sun of May, my baby walks back into my arms. Vi saluta la nostra redazione al completo, che è composta da Elisa Moretti, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e da Camilla Lattanzi, che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 437 della nostra trasmissione è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.